vita e penna, attonito, sguardo vago in silenzio. Chiuso nella mia stanza, la penna si muove libera su quel piano che parole e lacrime chiude libera. A chi inoltre si vuole, sfogliando in silenzio, la musica fa avanzare i pensieri che corrono, danzano e giocano e lasciar non mi vogliono. Riposare mi fanno in un mondo estraneo, seconda faccia della realtà. I pensieri di un ragazzo non trovano confine, perdermi fanno, ma una è la cosa che dietro l'angolo sempre trovo. L'amor confondermi fa, non si fa riconoscere misteri, sorprese, libera d'improvviso, forme strane, variate, assume. Ogni volta che lo si evoca, tonifica con lacrime vivere di questo grande mondo. L'amore cercato, sperato, rifiutato, rinnegato, insultato, aspettato, quando vuol si presenta al cuore e rilasciarlo non si può più. Non si può più pensare. È vero amore, l'amore confondermi fa, non si fa riconoscere misteri, sorprese, rivela d'improvviso, forme strane, svariate, assume. Ogni volta che lo si evoca, tonifica con lacrime il vivere di questo grande mondo. L'amor confondermi fa, non si fa riconoscere misteri, sorprese, rivela d'improvviso, forme strane, variate, assume. Ogni volta che lo si evoca, tonifica con lacrime il vivere di questo grande mondo. Ma guardami, ascoltami, sentimi e vedimi, ma abbracciami e prendimi, perché solo tu puoi farlo. Amore mio, fallo per me, smettila, impazzisco per te, con una penna scritta vivo di te. L'amore mi fa, non si fa riconoscere misteri, sorprese, rivela d'improvviso, forme strane, variate, assume. Volta che lo si evoca, tonifica con lacrime il vivere di questo grande mondo. L'amor confondermi fa, non si fa riconoscere misteri, sorprese, rivela d'improvviso, forme strane, svariate, assume. Ogni volta che lo si evoca, tonifica con lacrime il vivere questo grande mondo.